Spegnersi un po' e mi cadi addosso come una foglia, l'albero che eri, carbone ormai. Ma dove sei? Cosa ti fai? Guarda allo specchio, tingersi di nero. Dimmi perché quello che fai lo chiami amore. Sei tornato a casa con la pistola ed ora penso è colpa mia. Parli a voce alta, dici non capisco quando mi ami e che sono tua. Ma dove sei? Cosa ti fai? Guarda allo specchio, tingersi di nero. Dimmi perché quello che fai lo chiami amore. Il tuo sguardo vuoto come un guinzaglio lega le mie ali, carro ai buoi, uno schiaffo, un pugno, una pastiglia, l'angelo che eri è un demone ormai. Da dove sei? Cosa mi fai? Guarda allo specchio, tingersi di nero. Dimmi perché quello che fai lo chiami amore. Porta con l'armatura, parli del nemico e guardi me, guardi la mia faccia, vedi solo guerra. Un altro giorno e mi ammazzerai. Ma dove sei? Cosa ti fai? Guarda allo specchio, tingersi di nero. Quello che fai lo chiami amore.